penso cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò. Se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i sani. L'amore, amore mio. Se dentro l'anima tu fossi musica, l'immagine di te, così persa nei miei occhi, mi portò la verità.